ci dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Coração e Dinheiro. Coração e dinheiro. Facciamo rete, stiamo bene insieme. Coração e dinheiro. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cado giù. Da piccolo, fermando la ruota. E cadono giù o in ogni caso di sicuro non crescono. Ci riferiamo ai prezzi. Una notizia che solo in apparenza può sembrare positiva. Sto parlando del fenomeno della deflazione che sta condizionando lo scenario economico e che condiziona anche le scelte dei consumatori e dei risparmiatori. Ne parla oggi, ve lo segnalo, anche la guida pratica per la famiglia in edicola con il Sole 24 Ore, che nella sua prima pagina si concentra sui consigli per una spesa conveniente e di qualità, naturalmente considerando i prezzi. Nella sua seconda parte ci parla invece dell'altro aspetto di un prezzo basso, cioè della cosiddetta sindrome giapponese. Vi spiegheremo poi che cosa si cela dietro a questo concetto. Oggi anche noi nella prima parte di Cuore Denari ci concentriamo sui consigli per proteggere il nostro risparmio da questa tendenza dell'economia e se siete di fronte ad una scelta di investimento cercheremo di capire insieme qual è la migliore. Allora 800 24 00 24 per le vostre domande in diretta. Peraltro in questi giorni avrete sicuramente osservato l'andamento delle aste del tesoro italiano, avete visto che i rendimenti dei titoli di Stato continuano a scendere, chissà se questo fenomeno è direttamente collegato anche all'andamento dei prezzi. Quella della deflazione, ovvero del calo complessivo dei prezzi, è una notizia, come vi dicevo prima, che solo in apparenza suona bene, ma che quando la si ascolta con attenzione si rivela ben poco rassicurante. Tendiamo dunque le orecchie e oggi ascoltiamo i consigli del nostro Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Ben ritrovato. Buongiorno agli ascoltatori. E anche di Massimo Vettoretto, consulente finanziario indipendente, che ci aiuterà soprattutto in qualche orientamento appunto per i nostri risparmiatori. Buongiorno Vettoretto e benvenuto. Buongiorno anche a voi. Grazie. A proposito di orecchie, parliamo peraltro proprio di loro nella pagina del cuore del nostro programma. Lo faremo dopo il GR delle 12, quindi iniziate a prenotare i vostri interventi se volete anche su questo argomento, perché nel corso delle vacanze abbiamo portato in giro anche loro necessariamente e qualche volta possiamo risentirne, è il caso di dirlo, possiamo sentirne le conseguenze. Chi ha volato, chi è andato in alta montagna, chi ha fatto immersioni subacquee magari oggi paga un po' le conseguenze di queste scelte di vacanza. Accusate fastidio alle orecchie? Allora è il momento per sottoporre il vostro caso al nostro dottor Sandro Burdo, che sarà collegato con noi. E quindi 800 24 00 24 per parlare di orecchie, ma anche di obbligazioni e prezzi. Deflazione, ovvero calo del livello generale dei prezzi di beni e servizi, una parola che si sente sempre più spesso e che, al di là delle apparenze, in economia non rappresenta affatto una buona notizia. Certo, qualsiasi consumatore non potrà che dirsi contento di una complessiva discesa dei prezzi, perché ci si dovrebbe preoccupare di fronte alla possibilità di acquistare spendendo meno? Se le banche centrali e gli economisti sono terrorizzati di fronte a questo fenomeno, però un motivo c'è. In uno scenario di deflazione i prezzi non calano perché il mercato diventa più concorrenziale. Se così fosse, aumenterebbero i consumatori e il mercato si potrebbe espandere. Basti pensare, ad esempio, alle compagnie di volo low cost che hanno portato tutti a volare molto di più pur spendendo meno. Quello a cui stiamo assistendo, purtroppo, è qualcosa di molto diverso. I prezzi diminuiscono perché i consumi crollano. Con la crisi e la difficoltà ad arrivare a fine mese, le famiglie rinunciano agli acquisti e l'economia di certo non cresce. Le aziende non crescono, ma al contrario rischiano di chiudere perché il loro fatturato diminuisce. Insomma, la deflazione è un sintomo che va riconosciuto e che si abbina ad una patologia ben precisa e di cui tutti accusiamo gli effetti collaterali, a partire da chi ha messo da parte con fatica un gruzzolo e ha scelto di investirlo. 800 24 00 24, diteci un po' che effetto ha secondo voi questo calo continuo dei prezzi nelle vostre abitudini quotidiane. Avete notato negli scaffali del supermercato prezzi in forte discesa per quello che riguarda determinati beni, e che effetti ci sono stati nei vostri investimenti e che effetti ci saranno nelle vostre scelte di investimento future? 800 24 00 24, segnala Maximilian, un ascoltatore. Veramente siamo in stagflazione, quando praticamente al calo dei prezzi si associa anche la stagnazione economica. Non ha tutti i torti forse il nostro ascoltatore. Il no, tema attenzione, è... stagflazione è un'inflazione con, ah, sì, certo, con la stagnazione. No, non mi pare. Fare subito che... le figuracce in diretta. No, anche no, per l'ascoltatore, dico, insomma, certo. Non mi pare che siamo in inflazione. Esatto. Domani vedremo i dati di agosto, ma l'Italia potrebbe anche essere scesa, avere un segno meno davanti sui prezzi. No, stavo ragionando sui termini che vengono utilizzati anche in questo periodo per descrivere un po' le questioni macroeconomiche generali. In realtà anche il tema della deflazione in Europa si fa molto fatica, no? Ad accettarlo, perché Draghi dice ancora non ci siamo caduti in questo scenario, viviamo un contesto di bassissima inflazione, ma insomma, come la vogliamo mettere, i prezzi continuano a scendere. E abbiamo anche ripreso un po' i concetti espressi questa mattina dalla guida del Sole 24 Ore nella nostra scheda. Siamo addirittura in questa sindrome giapponese. Che cosa c'è da questo concetto, Maximilian? Ma la sindrome giapponese è semplicemente, ci si rifà al Giappone degli anni passati, diciamo degli ultimi 20 anni, in cui il paese del sollevante è caduto appunto in una lunga fase di stagnazione che si è accompagnata per molti, per un lungo periodo, anche a un calo dei prezzi. Tutto bene, si direbbe, quando si ha in mano il portafoglio, perché insomma si spende meno per fare la spesa per acquistare tutti gli altri servizi, però se poi si guarda dietro questa faccia c'è una brutta gatta da pelare, un vero e proprio spettro, che è quello della deflazione. Perché una cosa è, come si diceva in precedenza, un calo dei prezzi dovuto a un lato dell'offerta, cioè c'è una maggiore offerta, si fanno concorrenza, è accaduto per le compagnie aeree, è accaduto anche qualche anno fa per i mutui, se qualcuno magari si ricorda, e anche per i servizi bancari. Una cosa è se invece questo calo dei prezzi è dovuto al lato della domanda, cioè nessuno più acquista. Mm-hmm. E questo lo vediamo peraltro anche acquisti, dal dato sulle vendite al dettaglio. Beh, di oggi ovviamente siamo a zero rispetto al mese precedente e addirittura al di sotto rispetto all'anno precedente. C'è meno ricchezza, si acquista di meno, si rimandano gli acquisti proprio perché si pensa che poi i prezzi scenderanno, ma in questa maniera il motore dell'economia non gira, con tutto ciò che ne consegue. Insomma, le aziende fanno fatica, purtroppo ci sono problemi sul mercato del lavoro, e quindi è tutto un circolo vizioso che va avanti. Ecco, in Giappone questa cosa qui è andata avanti per molti anni, soltanto direi decenni, soltanto ultimamente si è riusciti a riportare il tasso dell'inflazione al di sopra dell'1,5% per mezzo di una politica estremamente espansiva da parte della banca giapponese, che è quello che adesso chiedono alla BCE. Anche se, appunto, come tu segnali questa mattina nella tua analisi sul Sole 24 Ore, ci sono piccole crepe nelle certezze del mercato sulle prossime iniziative di espansione monetaria da parte della Banca Centrale Europea. Senza intraprendere adesso il percorso del quantitative easing, magari ce lo lasciamo per altre trasmissioni, non lo affrontiamo a cuore e denari, però anche questo insomma è un tema da tenere sotto osservazione. Un ascoltatore da Sal, da Bergamo, scrive: le assicuro che in questo periodo, se i prezzi aumentassero, saremmo tutti rovinati. È chiaro che dal punto di vista dei consumatori questo è uno scenario appunto conveniente e favorevole, perché se io oggi potrei comprare una maglietta, ma so che ho la convinzione che fra un mese quella maglietta dei miei sogni costa ancora meno, è chiaro che per me va tutto bene. Ma quell'azienda che produce quella maglietta in realtà continua in questa guerra dei prezzi, magari appunto con altre società, fattura sempre meno e magari lascia anche lo stesso consumatore a casa. Magari lo stesso consumatore lavorava in quell'azienda, per cui questo circuito non è poi così favorevole. Massimo Vettoretto, non le chiedo naturalmente un commento sugli scenari macroeconomici, le chiedo però magari di raccontarci, in uno scenario deflattivo, quali sono le preoccupazioni dei risparmiatori che si rivolgono a lei. E poi magari parleremo anche dei prodotti di investimento più indicati in una congiuntura particolare come questa. Certamente. Allora, fatta quella che ritengo una doverosa premessa, nel senso che se, una, se un investimento è stato fatto per rispondere a un'esigenza specifica, come io uso sempre a consigliare ai miei clienti, queste modifiche che si avvengono sui mercati teoricamente poco influiscono, perché se non è cambiata l'esigenza non dovrebbero cambiare neanche gli investimenti. Quindi se un signore mette da parte del denaro perché vuol far studiare all'università suo figlio fra 15 anni, l'obiettivo rimane quello, e quindi magari ecco, gli scenari di mercato devono preoccuparci relativamente, ma poi facciamo fatica a non leggere i giornali, Vettoretto. Poi però ci sono i giornali da leggere. Ecco. Come dici giustamente, dobbiamo comunque vivere nella situazione in cui siamo. Ecco che per quello che riguarda gli investimenti invece la deflazione sostanzialmente potrebbe addirittura essere un vantaggio, in quanto il valore nominale dell'investimento non scende mentre aumenta il suo potere d'acquisto, un po' come hai detto prima per quello che riguarda la spesa di tutti i giorni. Per cui se io ho degli investimenti in titoli obbligazionari, per esempio con un emittente solido, ecco che il mio patrimonio se ne avvantaggia in questo caso, perché aumenta il proprio potere d'acquisto. Per assurdo anche il contante in questo periodo, in una fase di deflazione, diventa una sorta di investimento. Quindi diciamo magari un conto di deposito potrebbe essere una buona scelta, che è come dire lo strumento più liquido possibile, più vicino al contante? Esatto, per non lasciarli sotto il materasso, come si dice. Esatto. Un conto di deposito in questo momento sicuramente in una fase di deflazione sicuramente è un investimento positivo. Anche se appunto anche lì i rendimenti sono scesi molto, ma sono sempre superiori appunto al tasso di andamento dell'indice dei prezzi, esatto, al consumo. Poi bisogna sempre tener conto di qual è il rendimento reale, non il rendimento nominale, nel senso non quanto rende in assoluto, ma quanto rende rispetto all'inflazione. Certo, ma tornando alla domanda iniziale che le ho fatto, Vettoretto, c'è sensibilità nel mondo dei risparmiatori attorno a appunto a questo, a questa questione macroeconomica che stiamo affrontando questa mattina? Vengono davvero da lei a chiederle, ma insomma con i prezzi che continuano a scendere che cosa devo fare? Beh, per quello che riguarda gli investimenti non molto, perché almeno per quello che riguarda la mia esperienza, l'investitore soprattutto in questo periodo sente parlare di deflazione, certo, ma al tempo stesso vede i propri investimenti salire, perché ultimamente, a parte alcune eccezioni, gli investimenti continuano a salire, sia per quello che riguarda l'azionario, sia per quello che riguarda l'obbligazionario. Abbiamo visto anche in questi giorni dove è finito lo spread, insomma, ecco. Certo, io non vedo nessun calo, ci racconta Giulio da Como, anzi la pasta, il costo della pasta è quasi raddoppiato, quindi insomma vediamo anche effetti curiosi sui banchi del supermercato. Altri ascoltatori, Antonio dice inflazione, stagnazione, deflazione, saremo mica poco prima di una deflagrazione? Maximilian Cedino, te la puoi utilizzare questa domani per il quotidiano. Senti, invece parliamo un po' della relazione tra i prezzi, l'indice dei prezzi al consumo, i prezzi alla produzione, quindi l'inflazione o la deflazione in termini generali, e l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato che abbiamo visto questa settimana. Che relazione c'è? È giusto, la relazione c'è, non è diretta, non è direttissima, ma esiste, perché quei rendimenti che vediamo adesso a zero sono perché, lo accennavi in precedenza, il mercato si sta aspettando un'azione massiccia, molto più efficace da parte della Banca Centrale Europea per combattere questo spettro della deflazione. La Banca Centrale Europea già ha fatto molto, ha abbassato quasi a zero i tassi, potrebbe abbassarli ancora, ma sarebbe poco. Sta preparando nuove aste di rifinanziamento per le banche finalizzate alla concessione di prestiti. Potrebbe, e il mercato si aspetta, spera, insomma, creare proprio moneta attraverso quello che tecnicamente si chiama quantitative easing. E proprio per questo questa creazione di moneta dovrebbe avvenire, secondo quello che si aspetta il mercato, attraverso l'acquisto anche di titoli di Stato. Ed è per questo che il mercato si posiziona già in precedenza, acquisto ai titoli di Stato, anche italiani, ma anche tedeschi, tutti quelli europei, facendone lievitare il prezzo e contestualmente facendo abbassare ai minimi storici il tasso di interesse. Quindi questa, la relazione esiste, come no. Ieri si è verificato questa curiosa circostanza sul mercato delle obbligazioni. Il rendimento del BTP decennale è scivolato al suo minimo storico, siamo arrivati al 2,34% ed è andato a finire sotto il rendimento del titolo di Stato decennale americano. Che cosa vuol dire questo, Maximiliano? Beh, anche qui l'inflazione, il discorso dell'inflazione non è secondaria. Noi ci stupiamo molto perché diciamo, accidenti, l'Italia adesso è meno rischiosa degli Stati Uniti. Questo assolutamente non è vero, è una pia illusione ottica, perché gli Stati Uniti hanno un'altra, rispetto all'Italia, rispetto all'Europa, hanno un'altra banca centrale, hanno un altro tasso di crescita e hanno un'altra inflazione. Se noi vogliamo fare il tasso reale del nostro BTP a 10 anni, vediamo che questo tasso reale, il tasso reale, cioè togliere l'inflazione attesa da qui ai prossimi 10 anni a quel 2,34 che ricordavi, ecco che noi troviamo un tasso reale che è superiore a quello degli Stati Uniti. Quindi è con i tassi reali, cioè deflazionando il tasso nominale, quello che vediamo, che ricordiamo ogni giorno, che bisogna fare i calcoli. Allora in quella maniera il sorpasso svanisce. Altrettanto vero è che questa rincorsa ai BTP ha un po' annullato il rischio di credito, cioè di un fallimento, tra virgolette, per farla un po' più spiccia dello Stato italiano, quello che vedevamo fino a 2 anni fa, fino a che Draghi non tracciò quella riga sulla sabbia. Adesso proprio questa rincorsa ai BTP ha un po' cancellato, insomma, un pochino di rischio per l'Italia rimane, e anche inteso sui mercati, perché comunque la differenza anche rispetto a un Bund rimane, ma è molto molto minore rispetto a quella di 2 anni fa. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Sono già pronti in diretta Edvige dalla provincia di Milano, Giacomo dalla provincia di Pistoia. Prima di sentirli ho un'altra domanda per Massimo Vettoretto, perché sento che questa mattina, anche lei lo ha correttamente fatto, stressate molto il ragionamento attorno alla differenza fra rendimento reale di un prodotto di investimento e rendimento nominale. Perché è un concetto così difficile da far capire ad un piccolo risparmiatore, Vettoretto? Ritengo che fondamentalmente sia un po' una forma mentis del risparmiatore, nel senso che la prima cosa che si chiede quando si va in banca è quanto mi rende. Questo fa sì che il risparmiatore sia più focalizzato sul rendimento appunto nominale rispetto a quello che poi è la realtà della situazione in cui vive. Mi spiego, probabilmente un risparmiatore medio è più contento di avere un rendimento del 5% con un'inflazione del 4,5% piuttosto che avere un rendimento del 2% con un'inflazione di mezzo punto magari, perché gli rimane più... Certo, rimane più inciso nella mente questo 5% evidentemente, l'effetto del 4,5% dell'inflazione non lo vede, in realtà si vede poi nel lungo periodo, no? Perché che cosa succede? Viene in qualche maniera rosicato il capitale iniziale investito, Vettoretto? Da un punto sempre distinguendo tra nominale e reale, no, nel senso che comunque il risparmiatore alla scadenza si rivede restituito il suo capitale. Il problema, tra virgolette, è che con quel capitale lui non ci fa più la stessa cosa che ci faceva 5 anni prima. Chiarissimo. Questo magari non se ne rende conto, un po' perché magari comunque i prezzi magari per altri effetti sono scesi, non solo per deflazione ma perché magari per concorrenza o altre cose, e comunque spesso di questo aspetto il risparmiatore medio, ed è uno dei tanti aspetti che bisognerebbe un po' far evolvere, non se ne rende conto. Allora andiamo all'800 24 00 24, dove sentiamo cosa vuole chiederci Edvige dalla provincia di Milano, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a voi. La mia esperienza è questa. In effetti sono un pochino fuori tema oggi. Ho fatto un investimento sulla ristrutturazione della casa e la coibentazione, facendo conto... E quella dove abita Edvige è una casa... Beh, io ho una casa vecchia, era così, insomma, mio papà era un contadino, per cui una casa. Quindi non è quella dove abita? È quella dove abito, certo. Ah, sì. Ecco. E praticamente adesso mi ritrovo che tutti i miei conti, i miei conteggi sul fatto dei rimborsi e cioè gli incentivi fiscali per la ristrutturazione, praticamente vanno a farsi benedire, no? Per cui volevo dire che quello che pensavo che fosse un investimento tranquillo, in realtà, alla luce di quello che si dice in questi giorni, in effetti proprio credo che non lo è. Ma perché, Edvige, che cosa si aspettava lei dal fare questa operazione di ristrutturazione della casa dove sta? Guardi, io ho investito parte dei miei risparmi, ho investito la liquidazione, ho iniziato a 61 anni, ho un mutuo di 700 euro e adesso facendo il conto su quello che doveva essere il rimborso degli incentivi per le ristrutturazioni e le coibentazioni, facendo conto sul fatto che comunque grazie al cielo a 65 anni sto ancora bene e riesco a fare ancora un po' di lavoro, naturalmente pagandoci l'IRPEF e tutte le tasse, perché non si scappa da lì, non si scappa da lì, e praticamente mi ritrovo che se adesso diminuiscono, tolgono questi incentivi, questo rimborso delle agevolazioni. Perché gliele dovrebbero togliere, Edvige, mi scusi? Ma da quello che si sente dovrebbero abbassarle comunque. Ma per chi fa lavori nuovi, cioè per chi ha già eseguito lavori e già beneficia di incentivi fiscali per le ristrutturazioni, io l'ho fatti 2 anni fa, peraltro non ho il 50% di rimborso che da adesso lo Stato, ho il 36%, come Maximilian Cellino mi sta guardando in questo momento, ma noi manterremo appunto questo incentivo. Massimo Vettoretto, ha sentito che relazione ha stabilito la nostra ascoltatrice? La ristrutturazione della sua casa, dice, ma insomma, se invece di fare questo tipo di investimento, che non so come possa essere considerato peraltro un investimento, visto che la casa dove abita non è una casa che dà poi, che mette a reddito perché appunto la mette in affitto o che cos'altro, insomma, che ne pensa di questa ascoltatrice che adesso vive questo dilemma? Diciamo appunto, lei giustamente considera un investimento questa operazione, dal punto di vista finanziario è un debito che lei si è assunta per ristrutturare la casa. E per quello che riguarda il risultato finale, qua mi riallaccio un po' a una cosa un po' più generale. Io ad esempio ai miei clienti consiglio sempre di non effettuare investimenti, in linea generale, per ogni caso va valutato, in base a delle agevolazioni fiscali. Perché le agevolazioni fiscali oggi ci sono, ma magari per vari motivi domani. E certo, magari domani il governo le raddoppia, ma come pure. Però se anche li togliesse, come teme Edvige, lei ormai il suo pacchetto lo ha e nessuno glielo toglie. Quindi questo era un po' anche il timore. Dovrebbe essere sicuramente agevolata dai tassi comunque che bassi e che rimarranno bassi, e per cui il suo mutuo molto probabilmente non salirà. Se è variabile. Se è variabile, naturalmente. Se, è variabile, se no è fisso e rimane lì. Però insomma il tema è, come dire, per l'ascoltatrice aver parlato di una ristrutturazione della casa in cui abita come investimento, no? Pari quasi all'investimento in un titolo di Stato o in una azione. Ed è appunto curioso, secondo me, questo approccio, però ci sta. Magari non si avvicina ad un prodotto finanziario. Edvige dice appunto: i miei soldi li ho messi lì, però non mi danno le soddisfazioni che ritenevo potessero arrivarmi. Cuore e denari. Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso. Ci vuole orecchio, un organo fondamentale della cui importanza a volte ci dimentichiamo un po', e spesso ci accade di ricordarcene quando ci fa male, quando avvertiamo qualche fastidio. Le occasioni che provocano questi fastidi in estate si moltiplicano. Pensiamo alle orecchie che fischiano dopo un concerto, dopo una nottata in discoteca con musica a tutto volume, alle orecchie tappate dopo un volo, ai problemi che possono essere causati da un'immersione, da un'escursione in montagna. Vi è capitato qualcosa del genere quest'estate? Allora prenotate i vostri interventi all'800 24 00 24. Dopo le 12 ne parleremo con il dottor Sandro Burdo. Intanto, nel frattempo, continuate a prestare orecchio ai consigli dei nostri esperti di denari. E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più, e su sei sempre tu, e giù non ci sei più. Stiamo parlando dei prezzi che continuano ad andare giù, tanto che viene come dire temuto in Europa il problema della deflazione, e infatti anche per combattere questo problema la Banca Centrale Europea è pronta a scatenare nuovi bazooka. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, il mercato ha grandi aspettative. E poi abbiamo invece i nostri ascoltatori che fanno la spesa tutti i giorni, e qualcuno dice appunto di vedere come dire un andamento totalmente contrario. Un ascoltatore dice: ma di che cosa state parlando? So già che molti bar nella mia zona a settembre aumenteranno il prezzo del caffè. Qualcuno che ci racconta quello che costa una confezione di caffè invece al supermercato. E ragionavamo appunto con Maximilian Cellino a microfoni spenti di quei beni che invece i prezzi li stanno tenendo fermi. C'è un ascoltatore che dice: la benzina è aumentata in autostrada, qualche movimento lo vediamo in queste settimane, perché ovviamente quando ci sono i grandi esodi poi ovviamente soprattutto in autostrada ci se ne approfitta, ma in realtà queste fiammate sulla benzina nessuno le ha viste. No, anzi quest'anno io noto, cioè sono come tutti, vado alla pompa e faccio benzina, faccio gasolio, infatti, anch'io e gasolio, sì. Noto, sì, va bene, negli altri paesi forse costa un po' meno, ma qua siamo agli stessi livelli rispetto all'anno scorso, anzi un pochino meno rispetto all'estate dell'anno scorso, e forse anche gli stessi livelli due anni fa. Il prezzo dei carburanti poi spesso viene anche escluso dalle statistiche, perché è uno dei più volatili. Tanto per dire, noi non è che la deflazione sia una cosa di adesso. In deflazione ci siamo andati già qualche anno fa, quando c'è stata la forte recessione dopo il 2008-2009, e in quel caso molto era dovuto al prezzo dei carburanti, che se vi ricordate erano saliti a livelli più o meno di adesso, 1,60, vi parlo del gasolio, scusate, che poi è sceso di punto in bianco a un euro. Poi è vero che è risalito, ma insomma in quel momento ha creato un effetto deflazione che però non era così preoccupante per la Banca Centrale Europea e per l'economia in generale come lo è quello di adesso, perché quello di adesso è un calo generalizzato. Magari andando a vedere le singole cose non si vede, ma ci sono delle tariffe che stanno scendendo, altre purtroppo stanno aumentando, e di questo si accorgono le persone e giustamente si lamentano. E ci sono dei generi che sono fermi da molto tempo e in parte stanno scendendo. Chi fa la spesa ogni giorno si accorge di alcuni generi che salgono, altri invece anche nell'alimentare che non stanno assolutamente salendo e che sono più bassi rispetto allo scorso anno. Allora, sentiamo i nostri ascoltatori e poi ricoinvolgeremo il nostro consulente finanziario indipendente che è con noi questa mattina, Massimo Vettoretto. Sentirei Giacomo dalla provincia di Pistoia che aspetta da un po'. Giacomo, buongiorno. Sì, pronto. Pronto? Sì, ci siamo, ci dica. Sì, buongiorno, buongiorno. Io volevo fare una considerazione e chiedere cosa ne pensate. Nell'analisi che si è fatta sulla deflazione, che è un fatto comunque anche naturale nell'economia, in quando manca, diciamo, liquidità, come quando c'è l'inflazione, quando ce n'è in eccesso di liquidità, non si è considerato anche un attore principale dell'economia italiana in generale, che è lo Stato italiano con la sua fiscalità? Molto probabilmente quel caffè che aumenta al bar in realtà non è una marginalità che vuole il barista in più, ma molto probabilmente sono aumenti di costi dovuti proprio alla fiscalità generale, tipo la TASI, tipo tante tariffe. Che quindi lei dice, per esempio, il commercio scarica sui consumatori? Purtroppo, perché sì, tanti soggetti economici sono già una marginalità prossima all'implosione, ecco, perché insomma si vede quante aziende in questi anni chiudono, certamente sì perché il mercato si è in contratto, ma anche perché molta marginalità viene assorbita da uno Stato che non considera mai la deflazione. Infatti le spese dello Stato, diciamo, sono sempre altissime e quindi devono essere sostenute da una tassazione che ora siamo arrivati a livelli Giacomo mondiali. Con lei veramente ci stiamo avventurando in un terreno che forse non è molto congeniale per Cuore Denari. Detto questo, sicuramente molti commercianti adesso hanno una raffica di tasse da pagare, così come noi contribuenti. Magari, se vuole fare un commento, Massimo Vettoretto, su questo, che magari si confronta con i suoi risparmiatori ogni giorno anche su questi argomenti, no? Perché molto spesso capita di dover fare la scelta: o pago le tasse o metto da parte qualcosa. Vettoretto, in questo caso magari lei ha tra i suoi clienti anche qualche commerciante che si lamenta con lei di questo fatto: tutte le tasse che arrivano e qualche prezzo devono in realtà aumentarlo, ma non perché si intascano appunto i margini, solo perché devono appunto aumentare, devono soddisfare tutte le richieste dello Stato. Che ne dice di tutto questo? Sicuramente il livello di tassazione in Italia, lo sappiamo tutti, è estremamente elevato, e di conseguenza tutti gli imprenditori ne risentono. In questo momento ritengo che sia solo parziale quanto diceva l'ascoltatore, perché è vero che e i commercianti si trovano ad avere maggiori tasse da pagare, è anche vero che comunque, come dicevamo fin dall'inizio, la richiesta è, il mercato è molto asfittico in questo momento, per cui forse succede più spesso che i negozi chiudano piuttosto che alzino i prezzi. Allora, andiamo adesso, sì, voleva concludere Vettoretto? No, purtroppo, dicevo. Esatto, infatti bisogna anche fare questa chiosa finale di fronte a questa constatazione, a questa presa d'atto. Maximilian Cellino, volevo tornare a te per un altro esame relativo all'andamento dei mercati finanziari, perché a fronte di ascoltatori che naturalmente si lamentano del fatto che hanno stipendi bloccati, del fatto che naturalmente non arrivano alla fine del mese, che in realtà poi le bollette appunto comprimono un po' tutto il potere d'acquisto, gli 80 euro che sono serviti ben poco a rilanciare i consumi, tanti aspetti che questa mattina potremmo considerare, a fronte di tutto questo poi continuiamo a notare l'andamento dei mercati, i rendimenti dei titoli di Stato sempre più in basso perché evidentemente in tanti corrono ad acquistarli, e la borsa boom. Ieri ho letto questo dato, c'è un rally dei mercati azionari dal Brasile al Giappone, agli Stati Uniti, che ha fatto salire complessivamente il valore, lo Standard & Poor's americano sopra i 2000 punti, il suo massimo di sempre. Tutta questa situazione ha fatto salire il valore delle borse globali al record di 66 mila miliardi di dollari, quindi capitalizzazione incredibile, tanti soldi che finiscono in borsa e tutta questa liquidità delle banche centrali che non finisce all'economia reale. Quanto potrà durare tutto questo? Anche così per un po' preparare, sì, lo so che non è la sfera di cristallo, però sei impegnato, no, ogni giorno. Se lo chiedono in molti, insomma, quanto potrà durare. Ma qui c'è sicuramente un fatto. Tutto questo, come hai detto giustamente in precedenza, è stato principalmente scatenato dalle liquidità che le banche centrali, in primis la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, ma anche le altre, la Banca del Giappone, la Banca d'Inghilterra, hanno immesso sul mercato per cercare di uscire dalla crisi prima finanziaria e poi economica. Tutta questa liquidità ha dovuto trovare una direzione, ha trovato una direzione dei mercati, più che quella della creazione di ricchezza reale che negli Stati Uniti c'è stata, ma evidentemente non è abbastanza nemmeno per loro, che hanno un tasso di disoccupazione più o meno la metà rispetto a quello europeo. Quindi questa liquidità, torniamo al nostro discorso, è finita quasi interamente sui mercati. Ora questa liquidità, diciamo il rubinetto della liquidità, sta per essere, è un po' in questo momento è razionata la quantità di liquidità che viene iniettata sul mercato, e fra un po' si chiuderà del tutto, almeno negli Stati Uniti. Avete probabilmente sentito parlare di quantitative easing, di tapering, di rialzo dei tassi, è questo di cui si sta discutendo. Ci sono stati degli scossoni periodicamente sui mercati, mi riferisco ai mercati degli Stati Uniti e poi anche ai nostri di riflesso, nei mesi scorsi, se non poco più di un anno fa, quando si è cominciato a pensare che appunto questa liquidità prima o poi doveva finire, insomma. In realtà poi il mercato ha preso un po' le misure e le condizioni delle banche centrali sono ancora molto espansive, lo rimarranno ancora a lungo, perché negli Stati Uniti non hanno raggiunto il livello di crescita, di occupazione che vogliono, per cui per qualcuno questo vuol dire, equivale a gonfiare una bolla, altri dicono no, guardate che i prezzi poi alla fine degli asset, quindi delle azioni, non sono così elevati. In tutto questo c'è da considerare un ulteriore fatto, che la Banca Centrale Europea, di cui stavamo parlando prima, questo tipo di azioni non lo ha ancora fatto, e secondo il mercato potrebbe, ripeto ancora una volta, farlo da qui ai prossimi mesi, e questo aggiunge ancora chiamiamola speculazione, insomma, speculazione buona, evidentemente quando le borse vanno su, ma è pur sempre speculazione, sui listini che sta tenendo a galla, anzi li sta spingendo moltissimo. Fino a dove si possa arrivare non è chiaro. Certo, man mano che si va avanti ci sono sempre maggiori rischi di una possibile delusione, nel caso in cui la Banca Centrale Europea, ritorno al nostro discorso, giovedì prossimo non dia anche le risposte che il mercato si aspetta. Esatto, e se questa circostanza si dovesse concretizzare di non dare le risposte che il mercato si aspetta, aspettiamoci qualche piccola turbolenza, secondo me, settimana piccola prossima. Piccola turbolenza che equivale anche a dire che qualcuno si porta a casa dei bei guadagni che si è fatto, ricordiamoci, infatti, anche questo. Allora, ci fermiamo adesso perché sono pronti i suggerimenti per chi è in viaggio. Lasciamo andare Maximilian Cellino che ha un impegno. Vettoretto, l'ultima parte del programma, me la spendo tutta con lei, è contento? molto. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, allora l'ultima parte di Cuore e Denari, prima di parlare col dottor Sandro Burdo dei problemi delle nostre orecchie, prestiamo orecchio appunto alle vicende dei mercati finanziari, perché naturalmente, anche se magari non ci appassionano particolarmente, poi vanno a movimentare un po' i nostri piccoli risparmi, e allora interessiamoci un po' anche a tutti questi fenomeni macroeconomici che magari così direttamente non ci interessano, poi ci interessano quando andiamo a fare la spesa, ci interessano quando andiamo a fare un po' il monitoraggio dei rendimenti dei nostri investimenti, e quindi cerchiamo un po' di capire quello che capita attorno a noi. Siamo partiti dal tema della deflazione per poi affrontare l'andamento dei mercati finanziari, i rendimenti dei titoli di Stato ai minimi, borse invece sui massimi. Un paio di ascoltatori per il nostro Massimo Vettoretto questa mattina, anzi due ascoltatrici, Marcella da Milano e Anna dalla provincia di Ancona, le sento in sequenza, faccio prendere appunti a Vettoretto così poi rispondiamo, perché vedo peraltro due domande un po' simili. Marcella, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. La mia banca mi suggerisce di vendere i miei BTP, che hanno una bella cedola, 4,5, 5. Quindi li ha presi e proprio al momento. Sì, ho avuto il coraggio. Ecco. E adesso mi propone di vendere perché realizzo una bella somma. Mm-hmm. E mi dice, lei realizzi questa somma che poi noi li andiamo a investire in un altro, in un'altra gestione, mm-hmm, che minimo dall'1,5%, per cui dice lei aggiunge un 1,5 quel 4,5 che lei già sta prendendo. Mm. Vale la pena di fare questa vendita dei BTP per andare... Ecco, le facciamo fare una consulenza adesso dal nostro consulente indipendente. Metto insieme la sua domanda, anche quella di Anna dalla provincia di Ancona. Anna, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie di avermi chiamato. Allora, io ascolto pure questa risposta che darete alla signora, perché non avendo avuto il coraggio di investire nel 2011, perché ero già infarcita dei BTP precedenti, però ho visto che anche questi si sono alzati. Comunque, quelli li lascio da parte. La mia domanda è questa invece. Io ho dato ascolto al dottor Marco Liera, che seguo sempre il sabato nella Posta del Risparmiatore. Sì. Allora, parla sempre, da questi consigli, una parte del patrimonio investitela in BTP legati all'inflazione. E io infatti ne ho quelli BTP Italia, però non ho... Sì. Non ho fatto quelli con l'inflazione. Sì, sì, quelli che sono stati europea. Sono, ecco, stati praticamente messi sul mercato dal Tesoro proprio nel momento di maggior difficoltà, una scadenza di 4 anni, indicizzati all'inflazione, con il premio a scadenza, peraltro, quindi Anna... Solo al primo non ho aderito, però gli altri li ho praticamente, insomma, soddisfatti tutti. Adesso però mi chiedo, l'inflazione adesso proprio non se ne parla, no? Certo. È scesa, quindi non sono incerta se con 13-17 stavano. Grazie Anne, tutte domande pertinenti e forse chissà quante volte se le sentite fare Massimo Vettoretto, no? Allora, partiamo dal primo caso, quello di Marcella, che ha avuto il pelo sullo stomaco di prendersi BTP probabilmente quando lo spread era sui 500 punti, quando era ai massimi storici, no? qualche estate fa, Vettoretto, ce la ricordiamo tutti molto bene. Chi ha avuto quel coraggio sicuramente ha, come dire, portato a casa delle belle soddisfazioni, e però adesso la banca di questa ascoltatrice ha messo gli occhi su questo investimento, probabilmente gli dice disinvesti da lì per prenderti magari un prodotto nostro, non lo so, adesso Marcella non ce l'ha detto. Che cosa deve fare l'ascoltatrice? Che calcolo di convenienza deve fare? Allora, innanzitutto bisognerebbe capire esattamente la scadenza di questo BTP, ma comunque visto il rendimento sicuramente è una scadenza ancora medio-lunga. Il calcolo di convenienza è abbastanza semplice, nel senso che io devo considerare non quanto mi ha reso questo titolo, ma quanto mi renderà da oggi in avanti. Ecco che molto probabilmente avrà un rendimento praticamente molto vicino allo zero, posso supporre, per cui senza analizzare propensione a rischio e obiettivi di risparmio di questa signora, ritengo che l'operazione possa essere conveniente. Quella di disinvestire dal BTP, e bisogna vedere cosa ha proposto la banca, però qual è l'alternativa? Da quello che posso capire, la banca le ha proposto una cosa, che un investimento che anch'io in questo momento ritengo particolarmente interessante, e credo possa essere, spero per lei che lo sia, una polizza a gestione separata. Infatti ha parlato di una gestione con un rendimento dell'1,5% sopra il 4,5% che poteva garantire il BTP. Ecco, non ho capito questa combinazione. No, questa è sicuramente una confusione o un'errata comunicazione. I due rendimenti certamente non si sommano, perché una volta che io ho venduto il BTP parto con il nuovo investimento, per cui i due rendimenti non si sommano. E quindi potrebbe essere appunto una polizza vita, mi ribadisce Vettoretto, con una gestione separata. Che caratteristiche ha? Lo possiamo spiegare in 30 secondi una soluzione di investimento come questa? Ecco, queste praticamente sono delle polizze messe dalle compagnie assicurative che investono sostanzialmente in titoli di Stato. Hanno due vantaggi fondamentali, che uno è quello di garantire un rendimento minimo. Apriamo parentesi, quelle più vecchie, quelle nuove ormai non ce l'hanno più, per cui se lei mi parla di rendimento minimo, suppongo che sia ancora una di quelle con un rendimento minimo. Ma garantiscono il capitale a scadenza? Garantiscono il capitale a scadenza e soprattutto consolidano i risultati, per cui ogni anno il mio capitale è rivalutato e da lì si parte per calcolare la rivalutazione dell'anno successivo. Bisogna vedere però quanto costano anche questi prodotti, perché qualche volta le polizze hanno... La parte finale dovevo arrivare, ecco. In questo caso per la signora il mio consiglio è attenzione ai costi. Ecco, anche perché se appunto... Se i costi sono esorbitanti, lascia perdere e fare qualcosa. È che spesso appunto qua magari ecco che chiede alla banca anche questo, qual è il caricamento e soprattutto quello iniziale della polizza. Ben specificato nel prospetto informativo che molto spesso le banche consegnano, ma altrettanto spesso i clienti problemi. Anna invece ha i BTP Italia, mi pare che ne siano state fatte alla fine 5 emissioni complessivamente, mi pare che ce ne siano 5 in circolazione, il primo emesso proprio anche in questo caso, lo ricordiamo, rievochiamo di nuovo appunto il periodo durissimo dello spread appunto alle stelle. Titolo indicizzato appunto all'inflazione, durata di 4 anni, aveva tante caratteristiche appunto interessanti questo prodotto, però Anna dice adesso con l'inflazione che continua a scendere mi conviene portarlo a scadenza, il primo ha preso il secondo credo, quindi comunque sottoscritto almeno un paio d'anni fa. Sì, esattamente, ecco, fatta la premessa che i prodotti indicizzati all'inflazione proteggono dall'inflazione, ma purtroppo non proteggono la deflazione, ritornando al discorso della puntata. Per quello che riguarda lo specifico del titolo, a differenza dei tradizionali BTP che indicizzano all'inflazione sia il capitale che le cedole, il BTP Italia indicizza solamente la cedola, mentre il rendimento viene calcolato sul valore nominale e garantisce anche in questo caso un rendimento minimo. Per cui comunque in questa fase, adesso ripeto, bisogna valutare prezzi di acquisto, prezzi eventuali. Prezzo di vendita, ma non mi sentirei di consigliare quindi diciamo lei manterrebbe quantomeno a scadenza, anche perché c'era un premio appunto di fedeltà, il tesoro garantiva un tot appunto di titoli per chi portava a scadenza l'investimento e magari appunto valutiamo anche questo aspetto, però bisogna farsi due calcoli. E allora insomma scenari molto molto complessi, Vettoretto, in questo momento quelli che dovete affrontare anche voi. Mi chiedo, con queste borse sui massimi, se vede un risparmiatore da lei per chiederle: ho visto che la borsa, le azioni stanno correndo, voglio investire allora nel mercato azionario, lei che cosa suggerisce? Perché non è un po' troppo tardi per farlo adesso? Bisogna aspettare a suo parere qualche correzione, oppure magari con il piano di accumulo anche con le borse sui massimi si può investire prendendo delle posizioni appunto graduali? Ritengo che l'investimento azionario in questo momento sia sicuramente su degli altissimi livelli, come abbiamo già avuto modo di dire. Bisogna tener conto di un aspetto fondamentale però, ovvero sia le quotazioni dei titoli di borsa nascono fondamentalmente dal valore degli utili attesi. Ecco che se io vado a vedere gli utili che hanno presentato le aziende, ad esempio nella borsa americana, l'S&P 500, negli ultimi ben cinque trimestri hanno presentato utili sotto le attese. Ecco che se questo trend dovesse continuare, le borse potrebbero continuare a salire. Allora intanto, prima di salutarla, Vettoretto, abbiamo ancora 2 minuti di tempo, magari riesco a raccogliere 2 passaggi finali di 2 ascoltatori che tornano un po' sul tema dal quale siamo partiti, poi abbiamo fatto tutto questo volo arrivando anche all'investimento in titoli di Stato e appunto mercato azionario. Ritornano gli ascoltatori al tema dell'inflazione, deflazione, consumi eccetera, sulla base di come stanno andando i prezzi. sentirei Daniela dalla provincia di Latina, che cosa, qual è la sua osservazione. Daniela, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno e complimenti perché siete molto chiari e fate capire le cose. Meno male, guardi, perché qua, qua questi argomenti sono un po' ostici, però insomma ci proviamo. Dunque, la mia è un'osservazione sicuramente molto banale, però basata sulla mia esperienza. Io sono contenta degli 80 euro che ci danno in busta paga. Perché mi sono serviti per pagare le tasse. Lo dicevano molti giornali oggi, anche ieri notavo qualche giornale, qualche telegiornale, Daniele, effettivamente molti ascoltatori non l'hanno traslati sui consumi, ma ci hanno pagato dei debitucci. Esatto, e delle bollette. Non debitucci, proprio tipo TASI, tipo TARSI, tipo tutte queste cose qua. E meno male che c'erano, perché sennò almeno io, ma come me tantissima gente che vive con uno stipendio non un eccelso, è riuscita a far fronte ai suoi impegni, no? Perché è giusto pagarli, per carità di Dio. Però no, infatti, 80 euro vanno lì. Per tutti i detrattori di questa misura del governo, questo aspetto lo abbiamo sollevato molto spesso. È chiaro che 80 euro un mese non cambiano la vita, se cominciano a diventare strutturali un po' la vita la cambiano, hai voglia a pagare bollette con questa cifra. Daniela, grazie. Io sono perfettamente d'accordo. Daniela, grazie a voi. Daniela, lei ce la fa a risparmiare un pochino? Niente, io non risparmio nulla, però sono molto brava ad arrivare a fine mese. Brava, nel senso che ormai mi sono imparata a fare le mie cose e diario dei diventare consumi. Dei ragionieri. Grazie Daniela, grazie molte per la sua testimonianza. Io purtroppo non riesco a sentire Rudy da Trento, che voleva addirittura fare un passaggio al tema del passaggio dalla lira all'euro, e poi Nicola da Foggia, che è stato a Vasto per la vacanza, ha visto tutti i prezzi aumentare, ma qua dobbiamo anche tenere in considerazione quello che succede in estate. Vettoretto prevede un autunno interessante per il mondo del risparmio. Massimo Vettoretto. Sì, diciamo che sicuramente l'autunno che ci stiamo per affrontare sarà un autunno impegnativo. Ci saranno tante cose a tenerne in conto, e per concludere il discorso che avevo iniziato prima sui mercati delle borse, dobbiamo tenere conto della situazione geopolitica, che è molto preoccupante. Bravissimo, qua abbiamo una guerra di qua, una guerra di là, e non sono proprio temi dei quali non possiamo tenere in debita considerazione appunto le conseguenze. Grazie a Massimo Vettoretto, consulente finanziario dipendente che ci ha accompagnato fino ad ora. Noi torniamo dopo il giornale radio e parleremo dei problemi delle nostre orecchie. Cuore e denari. E poi vivere a vecchio senza ricette che qualcun altro ha prescritto, e poi starci un po' stretto, ma vivere a vecchio. Buttiamo l'occhio sui giornali naturalmente per leggere quello che ci capita attorno, ma prestiamo anche orecchio alle notizie macroeconomiche, ma non solo. È giunto il momento di prestare orecchio, proprio il caso di dirlo, ai consigli del nostro dottor Sandro Burdo, medico, audiologo e consulente audiologo degli istituti clinici di perfezionamento di Milano. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Abbiamo già tantissime domande per lei, questo ci fa piacere, perché purtroppo forse per qualcuno insomma la vacanza si è conclusa con qualche strascico al nostro sistema uditivo. Comunque, musica, altitudine, acqua ed immersioni, ma anche l'auto o l'aereo, sono tutte esperienze che si fanno più frequenti nel corso della stagione estiva e che possono ripercuotersi anche sulla salute delle nostre orecchie. Ne ho dimenticata qualcuna, dottor Burdo? Ma direi proprio di no, è stata veramente esaustiva. Veramente tutto questo può succedere alla fine delle vacanze, ma non solo alle fine delle vacanze. Ecco, quindi anche chi non... alla fine della vacanza ce ne accorgiamo con maggior dispiacere, perché dal benessere passiamo al malessere. Qual è la più diffusa, secondo lei, di tutte queste circostanze? L'aereo, per esempio, dà fastidio a molte persone? Sì, assolutamente, anche perché ci sono degli aerei non ben pressurizzati che non permettono alla nostra tuba di Eustachio, che è il canale che va dall'orecchio al naso, di compensare la pressione, perché salgono troppo in fretta o scendono troppo in fretta, e quindi questo provoca una retrazione della membrana timpanica e un dolore indicibile, cioè fa veramente male. Mm-hmm. Adesso cercheremo di capire anche se ci sono delle orecchie più a rischio di altre, perché magari i diretti interessati non lo sanno e quindi rischiano un po' di più, ma io direi di dare subito la parola ai nostri ascoltatori che ci raccontano appunto come si è conclusa la loro vacanza e con quale orecchio sono tornati a casa. Allora, Antonio dalla provincia di Barletta Andria Trani, dobbiamo dire tutto. Antonio, buongiorno e benvenuto comunque dalla Puglia, certamente. Buongiorno a lei, buongiorno. Eccoci a lei. Qua. Cosa è successo a sua moglie in crociera? Allora, niente, noi abbiamo fatto una crociera di una settimana con poi 4 voli per raggiungere Copenaghen per l'imbarco, e al ritorno mia moglie ha accusato questo problema all'orecchio. Il primo giorno aveva un dolore all'orecchio, poi è rimasto tappato praticamente finora, sono passate 2 settimane, nonostante una terapia che gli ha dato anche il medico di base con un mucolitico e dell'Ariosol. Mm. E quindi voleva avere qualche chiarimento, qualche suggerimento da parte del nostro dottor Burdo. Allora, intanto sicuramente orecchie sottoposte a molti stress in questo caso, perché una crociera anche con diversi cambi di aereo, dottor Burdo, per cui non un volo e via, non una piccola crociera, ma molti passaggi, quindi anche lì sicuramente un orecchio sottoposto ad un certo stress. Sicuramente, in realtà io penso che abbia subito una serie di variazioni pressorie, come dicevo prima, importanti. Molto probabilmente la signora era predisposta, magari era un po' raffreddata, la sua tuba non era in piena forma e quindi è rimasta chiusa più del dovuto. L'aerosol in sé io non lo vedo come un trattamento adeguato. Va bene, ma iniziale lì bisogna fare in modo che la tuba si apra. Perché la tuba si apre, bisogna scaldarla, perché è solo molto probabilmente congestionata e scaldandola si riesce a aprire. Poi si fa l'aerosol con del cortisone soprattutto, perché il cortisone è un antinfiammatorio, certo. E quindi apre la tuba. Mm. Però direi che non è diverso da quello che ci siamo detti, una tuba che funziona male non riesce a sopportare le variazioni pressorie di questi aerei che si alzano o si abbassano in fretta. Ma riscaldarla come la tuba, dottor Burdo? Scaldarla, qual è la modalità? Con i sofomigli, la regola della nonna. La nonna metteva il bimbo o la signora con il naso sul catino con un asciugamano in mano, in testa, scusi, il catino pieno d'acqua bollente con dentro quei profumi di pino che se danno anche piacere a odorarli, ma il caldo in realtà che decongestiona il naso. Chiaramente. Decongestionato il naso si libera la tuba. L'orecchio della moglie del nostro ascoltatore che ci ha chiamato, era possibile che fosse un po' più sensibile rispetto all'orecchio di tutti? Nel senso, le rifaccio la domanda dal quale siamo partiti prima, ci sono delle orecchie più a rischio di altre? Ma penso di sì, in questo caso questa signora molto probabilmente avrà avuto una congestione nasale, magari subdola, di cui lei manco si è accorta, e in realtà sotto stress pressorio si è evidenziata con questo mal d'orecchio. Però altrimenti si sarebbero chiuse entrambe le tube, cioè la signora e anche il marito avrebbe avuto mal d'orecchio se non fosse stata predisposta, certo, in quell'orecchio. Senta, diamo qualche suggerimento magari per chi sta ascoltando stamattina il nostro programma, qualche fastidio all'orecchio magari ricorrentemente nel corso dell'anno ce l'ha, deve partire per un volo aereo, magari per un viaggio di un altro tipo, quali suggerimenti gli possiamo dare appunto per fare attenzione affinché poi non avverta magari il dolore o il problema e non rovini la sua vacanza? Certo, questo vale per gli adulti che soffrono di queste, si chiamano tubariti, cioè di infiammazione della tuba dello stomaco, ma soprattutto per i bambini, perché i bambini hanno le tube orizzontali, non sono verticali come le nostre, e quindi favorisce il ristagno di catarro e quindi vanno aiutati nell'apertura. E lo ripeto, atterraggio e decollo sono i momenti critici per l'apertura della tuba. Per far questo, il nostro suggerimento è quello di usare delle gocce da mettere nel naso, queste delle comuni che si trovano in farmacia, un quarto d'ora prima del decollo, e magari fare questi soffumigi che preparano la mucosa allo stress. Ma mezz'ora prima di partire si fa il soffumigo, poi si usano queste gocce nell'orecchio, nel naso, non nell'orecchio, nel naso, e attenzione, si deve mangiare la gomma americana o succhiare le caramelle sia al decollo che all'atterraggio, perché in questo modo la deglutizione continua favorisce l'apertura delle tube. Molto chiaro. Ecco perché il bambino molto piccolo, il lattante, va attaccato al seno o si dà il biberon sia quando si atterra sia quando si decolla. Non la conoscevo. questo stratagemma. Quindi il bambino appunto va curato in questo modo per evitare il problema all'orecchio, appunto, se ce lo dobbiamo portare con noi per un viaggio, soprattutto quindi il neonato. Ah, ottimo, allora 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Inevitabilmente quando parliamo di questo argomento con Nicoletta Carbone, lo sa bene, arrivano davvero tantissime delle vostre segnalazioni. Domenico da Milano a fretta, e allora lo sentiamo subito. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Niente, tornato dalle vacanze, praticamente ho avuto problemi in orecchio, diciamo un ronzio interno. Sono stato in ospedale e mi è stata diagnosticata una ipoacusia improvvisa. Mm-hmm. Dove è andato, Domenico? Magari vediamo se possiamo attribuire anche questo problema al tipo di vacanza che ha fatto. No, sono stato in Italia, praticamente al mare, in Sicilia, niente di... Non ha fatto sforzi particolari, imprese in mare particolari? Nuotavo molto, ecco nuotavo molto, e adesso praticamente ho subito un danno dall'orecchio sinistro, praticamente ho perso il 90% del... Nonostante le cure antivirali. Aspetti, li vediamo se il dottor Burdo ha bisogno di altre informazioni da parte sua per magari farle così una diagnosi al volo. Dottor Burdo, cosa può essere successo a Domenico? No, anche questa è una situazione non frequentissima, ma neppure rara. Quella della sordità improvvisa, il 90% dei casi è legata a un'infezione virale. Quindi chi è sfortunato diventa sordo, chi è fortunato si becca solo un raffreddore, per intendersi. Questo provoca un'infiammazione della parte nobile dell'orecchio, cioè le cellule ciliate, che sono l'equivalente della retina dell'occhio, e questa infiammazione può portare alla distruzione di queste cellule, proprio alla morte di queste cellule, e quindi non è reversibile. Soprattutto con una sordità dell'entità di cui ha parlato il paziente, l'ascoltatore, il 90% vuol dire che la maggior parte delle cellule sono state distrutte. E in questo caso, giusto la terapia che ha fatto con degli antivirali, sicuramente gli avranno dato anche dei cortisonici, generalmente si ricovera in questi casi perché viene considerato un'urgenza. Oltre il 60 decibel generalmente è irreversibile, cioè non si può curare. Neanche un minimo recupero? Oggi con l'orecchio bionico, con gli impianti cocleari, se il paziente accetta l'aspetto estetico, perché non si tratta di un intervento estetico, si sostituisce l'orecchio, diciamo la parte fisiologica persa, con un sistema di elettrodi. E poi all'esterno sembra quasi una protesi acustica, ma non è una protesi acustica, e l'udito può essere ripristinato. Si ripristina la funzione, ma non l'anatomia. E quindi insomma adesso diciamo che Domenico deve fare una bella chiacchierata con il medico appunto professionista in questo campo per capire come artificialmente recuperare l'udito che ha perso purtroppo. Dottor Burdo, c'è questo dolore che arriva all'improvviso ed è molto violento spesso, e ci può mettere anche in crisi non solo il nostro orecchio, la nostra vacanza, tutta la nostra vita. L'otite al mare, il rischio diventa sicuramente più alto, è colpa dei bagni secondo lei? E l'otite per quale motivo appunto si manifesta? Che cosa succede al nostro orecchio? Ecco, lì distinguiamo i dolori, perché il dolore può essere provocato sia da un'otite, peraltro le otiti possono essere esterne o medie, poi ne parliamo, ma può essere anche quella che in termini tecnici si chiama un'otodinia, cioè un dolore acuto violento che è legato in realtà a un'infiammazione dell'articolazione temporomandibolare. Le persone che digrignano molto i denti a un certo punto spalancano la bocca violentemente, provocano una microfrattura del menisco che c'è nell'articolazione temporomandibolare, il dolore si irradia all'orecchio e sembra un mal d'orecchio. In realtà è stato un danno, diciamo un trauma temporomandibolare. Così come una tonsillite acuta può provocare come dolore riferito, ma il dolore in realtà al paziente ha una tonsillite. Quindi l'otite come la riconosciamo quando è proprio esattamente lei? Ecco. Poi nel 90% dei casi ho elencato due casi, due possibilità, diciamo rare ma non impossibili. Più frequenti sono le otiti, che possono essere esterno medie, ed è importante distinguere l'esterno media perché cambia la terapia. L'esterna vuol dire che si è infiammata la cute del condotto uditivo esterno, per esempio un foruncolo che esplode, che si matura all'interno del condotto uditivo esterno, fa un male terribile ed è un'otite esterna. così come l'otite fatta facendo il bagno in acque non particolarmente salubri, si infetta la cute, magari c'è un po' di cerume, si sporca così, e c'è, è un'infezione della cute, in realtà è una dermatite. Come si può distinguere questo tipo di otite dall'otite da catarri, quella comune, dopo la cottura, siamo tutti intasati? Basta premere sul trago, cioè sulla cartilagine che difende il condotto uditivo esterno, quindi la protuberanza che guarda in avanti rispetto alla parete, diciamo, anteriore del condotto uditivo esterno, la si spinge verso, dall'esterno verso l'interno fino a chiudere il condotto uditivo esterno. Se fa molto male è una otite esterna, se invece il dolore non varia facendo questa manovra è un'otite media. Questa è una manovra semplice. La terapia cambia, perché in caso di otite esterna è sufficiente, ma bisogna farla, dico sufficiente, ma bisogna farla, una terapia locale, quindi le gocce, andare dal medico, farsi aspirare la porcheria che c'è dentro. Ho capito. Scusi l'espressione, ma è questo. Abbiamo detto anche delle cose più terribili, non è un problema. Altrimenti la terapia antibiotica? Altrimenti la terapia antibiotica. Ecco, dare degli antibiotici a un'otite esterna, insomma, è un po' azzardato secondo me, perché prima che l'antibiotico arrivi alla cute passa molto tempo, quando invece il problema è locale, quindi va pulito e va disinfettato. Perfetto, insomma, abbiamo scoperto tutti i segreti dell'otite, che peraltro molto spesso quando colpiscono i bambini sono particolarmente violenti, perché poi i piccini non lo sanno neanche spiegare bene da dove arriva tutto questo male. Ma noi ritorniamo agli adulti e andiamo a Sandro da Modena. Sandro, buongiorno. 800 24 00 24, avete ancora 6 o 7 minuti di tempo per appunto raccontare il vostro problema al dottor Burdo. Sandro, buongiorno. Buongiorno. Chiama Sandro anche lei. Sì. Niente, io da qualche tempo, già un annetto dire la verità, ho l'orecchio sinistro che con i suoni particolarmente acuti, per intenderci il cucchiaino nella tazza da caffè mentre giro il caffè, mi dà particolarmente fastidio e ho una sensazione come di pulsazione. Ultimamente questa cosa si è accentuata. Ho capito. Con i suoni particolarmente acuti, insomma. Insomma, lei il caffè la mattina è proprio un'impresa titanica per lei. Prendere a mano. Più la sera che il mattino. Ah, ecco, anche questo magari è, come dire, un tema interessante, una segnalazione interessante. Più la sera che la mattina, dottor Burdo. Allora, che cosa succede nell'orecchio del nostro ascoltatore di Modena? Ma è probabile che questo signore possa avere una sordità iniziale. Mi spiego, è un paradosso. Come può una persona che diventa sorda avvertire dei suoni in modo fastidioso? Perché le prime cellule ad essere, come si può dire, colpite in caso di sordità iniziale sono le cellule ciliate esterne, che sono all'interno della coclea, che controllano anche la sensazione. Per cui controllare la sensazione significa che c'è un sistema di regolazione tipo un termostato, per cui i suoni acuti vengono dal nostro organismo molto forti e acuti, vengono controllati e vengono automaticamente abbassati. C'è un controllo automatico del volume. Nel momento in cui queste cellule si ammalano, viene a mancare il controllo automatico del volume, per cui il suono diventa fastidioso. Ed è la stessa sensazione che può provare chi beve due bicchieri in più e al quale danno molto fastidio i suoni intensi. Però perché vengono a mancare proprio i sistemi di controllo. Allora, il mio consiglio in questo caso è un esame audiometrico, una valutazione specialistica abbastanza urgente, perché può essere un segno di una sordità iniziale. E quindi, insomma, meno male che Sandro peraltro ha prestato attenzione anche a questi segnali, dottor Burdo, no? Perché magari un'altra persona neanche ci poteva far caso. Evidentemente comunque sono abbastanza intensi, tali da dover essere segnalati. Che dice? Danno abbastanza fastidio. Si chiama, in termini tecnici, un nome difficilissimo, si chiama recruitment. Allora, lei prima ha citato le cellule ciliate, sono rimasta molto colpita da questo concetto, sul quale si sofferma Davide dalla provincia d'Avarese, che peraltro vorrebbe affrontare anche un altro argomento, che è quello dell'impatto emotivo conseguente alla perdita dell'udito. Giusto, Davide? Sì, giusto. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Sì, difatti sulle cellule ciliate, buongiorno dottor Burdo, so che anche lei è di Varese. Ah, ecco. esatto, sì. Sento i Varesotti. Ecco, sulle cellule ciliate ha già risposto il dottore, appunto dicendo che non c'è la possibilità di recuperare, però avevo sentito che forse dalle ultime ricerche è possibile recuperare un po' della mobilità di queste benedette cellule ciliate che ci fanno perdere la capacità di udire bene. Le è capitato anche a lei, Davide? Sì, esatto, anch'io non ho un udito perfetto. Mm-hmm. Riesco a sentire comunque Radio 24. Bravo! Visto che per l'essenziale la funzionalità è rimasta benissimo, esatto, a parte questo, esatto, che non voglio essere neanche poco rispettosa del suo problema. Quindi la domanda, ecco, per il dottore qual è? La domanda per il dottore è, ecco, appunto, riguarda l'aspetto psicologico, lo stress. Ecco, quanto lo stress ci entra nella perdita uditiva, comunque nella qualità dell'udito. Certo. Io mi sono accorto che nei periodi più stressanti per quanto riguarda la mia vita tendo a faticare un po' di più a distinguere le parole, ho paura di non sentire. Certo, anche la stanchezza probabilmente ha questo effetto su di lei e lo stress. Davide, grazie per la bella domanda, magari richiederebbe veramente tutta una puntata, quando un po' questi problemi cambiano, no, la nostra sfera emotiva. Dottor Burdo, dobbiamo accettarli intanto, quindi probabilmente anche questo aspetto, questa questione incide. Però lo stress, nota Davide, come dire, mi porta a delle difficoltà maggiori attorno a questo problema. È così per tutti, dottore? È così per tutti, perché in realtà l'ascolto, che è il momento finale della nostra percezione, è dato dalla, come si può dire, utilizzo contemporaneo dell'organo uditivo, quindi dell'udito e dell'attenzione. Nel momento in cui noi siamo stanchi e abbiamo l'organo uditivo, se funziona bene, che sopperisce alla carenza di attenzione. Ma se uno è già un po' sordo ed è stanco, uno più uno fa tre, nel senso che manca sia l'attenzione perché è stanco, l'organo uditivo, abbiamo detto già che ha dei problemi, quindi ha un deficit di ascolto e gli sembra di sentire di meno, in realtà è meno attento. Ora il signor Davide forse non sa, ma noi abbiamo scritto un libro che si intitola Sordi a Varese alla conquista dell'anima. Questo lei, dottor Burdo, ce lo manda e noi lo mandiamo a Davide, naturalmente, quindi facciamo questo giro, tanto siete tutti vicini. Ecco. Mi sono permesso di dirlo perché è esaurita in libreria. Oh, mannaggia, va bene, chiederemo una ristampa. Sordi a Varese, quindi. Sordi a Varese alla conquista dell'anima, proprio perché l'udito, pochi riflettono sul fatto che noi siamo così perché sentiamo. La nostra testa, la nostra anima è stata costruita ed è costruita tuttora su ciò che noi avvertiamo, percepiamo, e quindi c'è una assoluta, come si può dire, correlazione tra udito ed emotività, udito e personalità, udito e felicità. Poi alla fine. No, non è che a Varese c'è un tasso di sordità più alto in media del resto d'Italia, no? Più ecco. Altro a Varese abbiamo creato un centro di audiovisivologia di riferimento, per cui con una casistica io ormai ho lasciato Varese e mi dedico alle consulenze a Milano. È vero. Varese è uno dei centri più importanti d'Europa. È così, insomma, per chi ha magari problemi di un certo tipo e abita magari qui vicino o anche più lontano e vuole raggiungere questo centro, abbiamo dato anche oggi questa segnalazione concreta. Dottor Burdo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. C'erano alcuni ascoltatori che volevano raccontarci. Anna è stata in vacanza in Australia, ritorno ha avuto questo prurito. Gianluca soffre della sindrome di Meniere. Io non so se l'ho pronunciato correttamente, ma magari scriveteci e chiederemo una consulenza nel privato al dottor Sandro Burdo, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, buona giornata, dottore. Grazie anche a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Io saluto, perché forse oggi ci ascolta, la nostra Nicoletta Carbone, che torna con me in coppia lunedì prossimo. Io intanto torno con voi domani. A tutti buona giornata. Cuore e denari.